I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Non sembri un argomento troppo tecnico, ma in queste ore in Europa è in atto un braccio di ferro che potrebbe avere conseguenze molto importanti e nefaste per l'economia del nostro paese. L'Ecofin di domani dovrà esaminare una volta per tutte la creazione del fondo di garanzia unico per i depositi entro i 100.000 euro, denari che l'Europa ha già deciso di stanziare e mettere in comune per completare l'operazione che ha portato alla cosiddetta vigilanza unica delle banche europee, che ora compete per la stragrande maggioranza degli istituti alla Banca Centrale Europea e non più alle singole banche centrali nazionali. Nonostante sia stato già oggetto di un accordo, mancava però il completamento della garanzia unica, appunto. Ma perché questo non arriva? Perché i tedeschi non la vogliono, o meglio, la vogliono subordinare all'eliminazione della clausola di non rischiosità dei titoli di debito dei paesi dell'Eurozona. Non sembri, ripeto, una cosa troppo tecnica, significa semplicemente che se quell'ipotesi passasse, da un giorno all'altro i titoli che sono nei forzieri delle banche costerebbero di più perché verrebbe differenziato il loro livello di rischio, che oggi non c'è, e costringerebbe le banche a rivedere il quadro dei propri conti. Ci sarebbero naturalmente gravi danni proprio per i paesi ad alto debito come è l'Italia, perché da una parte imporrebbe costi più alti al sistema bancario, che proprio in questi giorni ha invece risolto brillantemente il tema dei crediti in sofferenza, e dall'altro creerebbe un problema agli stati perché avrebbero più difficoltà a piazzare i loro bond sul mercato. Insomma, uno scambio luciferino che è bene che l'Europa eviti con ogni mezzo. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Il tema delle pensioni continua in questi giorni a tenere banco. C'è l'attesa, l'interesse per le possibili modifiche alla legge Fornero, o meglio per i possibili interventi destinati a introdurre forme di flessibilità per favorire l'uscita dei lavoratori più vicini all'età della pensione e contestualmente creare anche più opportunità per il ricambio generazionale, per l'ingresso dei più giovani nel mercato del lavoro. Inoltre, oggi sono arrivati dall'INPS alcuni dati statistici che segnalano la frenata delle nuove pensioni liquidate nel primo trimestre del 2016. Sul primo aspetto, cioè sulla flessibilità, sappiamo che ci sono molte ipotesi in discussione. Oggi sul Sole 24 Ore abbiamo detto della possibilità di rafforzare la previdenza integrativa, ma sappiamo che il costo di molti di questi interventi rischia di essere significativo. Sull'altro aspetto, come accennato, i dati di oggi dell'INPS segnalano la diminuzione di un terzo delle nuove pensioni liquidate nei primi tre mesi del 2016, un andamento che risente delle due novità scattate a gennaio in applicazione della legge Fornero, vale a dire l'aumento per tutti di 4 mesi dei requisiti per il pensionamento come effetto dell'aumento dell'aspettativa di vita e i nuovi limiti di età per le donne del settore privato e per le lavoratrici autonome. È una conferma che dal punto di vista della tenuta dei conti pubblici la riforma Fornero, criticata e contestata, sta però funzionando, e anche che i meccanismi di flessibilità allo studio, che sono certamente necessari, non possono però compromettere la stabilità del sistema previdenziale. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.